Noi ringraziamo Cruciani e Parenzo per lo straordinario zelo con il quale sono riusciti per molti anni ad animare una trasmissione che fa ormai parte stabile della storia della radiofonia in Italia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Questa è la definizione che ha dato dell'Italia Matteo Salvini. Sentilo, senti la Cittadella. Sentiamo. Nel weekend, la definizione che ha dato dell'Italia. Ovviamente ha ragione, magari per motivi diversi da quelli che dice lui, secondo me ha ragione. Senti la definizione che ha dato. Ma perché contestate lo Stato italiano? Ma perché uno Stato che per 18 anni processa per banda armata 36 padri di famiglia e dopo 18 anni si accorge che il processo era sbagliato, è uno Stato di merda che andrebbe processato. Processiamo chi fa questi processi. Stato di merda, mi tagliate questo pezzettino per favore, è uno Stato di merda. Allora, uno Stato che dà 3200 vitalizi ai consiglieri regionali che non dovrebbero avere vitalizio, il vitalizio politico va cancellato perché molti hanno il vitalizio, hanno cioè la pensione con le loro professioni, e chi non ce l'ha, chi se ne frega, va cancellato il vitalizio, anche quelli prima vanno cancellati. Uno Stato che cos'è se non uno Stato di merda, quello che dà 3200 vitalizi? Spesso il bilancio delle regioni oggi è gravato da questi vitalizi che devono essere dati ai consiglieri regionali. Allora, come si può definire uno Stato in cui il signor Jenny Acarogna, te lo ricordi il signor Jenny Acarogna? L'uomo della trattativa, come no? Certo. Allora, il signor Jenny Acarogna è stato l'interlocutore delle forze dell'ordine. È stato arrestato. Uno dice è stato arrestato per cose nuove, ha rapinato una banca, no, ha fatto, che ne so, uno scippo, oppure che ne so, una truffa, le cose che può fare chiunque in Italia, no? Cioè, può commettere qualsiasi persona. No, è stato arrestato per i fatti dell'inizio di maggio. Cioè, quasi cinque mesi dopo, un giudice ha analizzato le carte, le cose, dice che era a capo di una banda criminale, eccetera, eccetera, eccetera. Tu capisci, no? Non è che ci voleva un giudice per capire che quello era il capo di un sodalizio criminale. Eppure già dal nome, voglio dire, no? Lo arrestano cinque mesi dopo, così funziona l'Italia, capito? Dai, su. A proposito di Napoli, saranno contenti. No, perché contenti. Poi non hai detto però che una delle ragioni è anche la maglietta che aveva lì. Ma no, ma c'è la maglietta, sì, ce l'aveva quel giorno. Perché cinque mesi? La maglietta dice no. Ma guarda, sì, ci saranno certamente le inchieste. No, ma anche per la maglietta hanno detto. Invece, beh, quella maglietta quando se l'è messa? Quel giorno stesso in cui trattava. Cinque mesi e quel fa. Giorno ce l'aveva. Cinque dai, mesi fa ce l'aveva quel giorno. Leggo su Il Mattino di Napoli, sempre a proposito di Napoli, saranno contenti i nostri amici neoborbonici, quelli che ci attaccano dandoci dandomi soprattutto del razzista, eccetera, eccetera. Però sul Mattino leggo Napoli città fuori legge, non è che lo scrivo io, Il Mattino di Napoli, cioè i napoletani, gli stessi napoletani, chi è che mi chiama? Nessuno. Napoli città fuori legge, nel weekend 220 alla guida senza assicurazione, chi è che mi chiama a quest'ora che non sanno che sono in diretta? Ah, Sgarbi, sì. 220 alla guida senza assicurazione. Beh, e 96, rispondi, scusa, no, dopo. E 97 senza patente, 97 senza patente e 220 alla guida senza assicurazione. Sempre per quel discorso di stato di merda, eh. Ma è anche il paese paese dove ad Agrigento, leggo oggi, caro Parezzo, ad Agrigento ci sono, ovviamente la solita inchiesta sui falsi invalidi, in Italia ci sono sempre falsi, ma quanti saranno sti falsi invalidi in tutti questi anni? Sarà 20 anni che si indaga sui falsi invalidi. Ci sono 100 indagati e 10 medici arrestati ad Agrigento, i falsi. Io penso che uno che si finge falso invalido va accorcato di botte dagli invalidi stessi. Beh, cioè tutti gli invalidi si devono alzare troppo, si devono alzare dalla sedia a rotelle, miracolosamente dalla sedia a rotelle, prendere le stampelle, chi ha la stampella, ovviamente boom, boom, boom, boom, botte. Dai, su, come si fa? Oh, passiamo alle cose cosiddette serie. Cosiddette serie. Allora, Renzi adesso pare che voglia, pare, perché poi bisogna vedere i disegni di legge, l'applicazione. Vuole fare sul serio. Sì, vuole fare sul serio. Va negli Stati Uniti e dice che l'Italia va rivoluzionata sistematicamente. Ovviamente lo dice negli Stati Uniti. Quando è in Italia, insomma, è un po' meno forte, un po' meno cazzuto, no? Allora, sull'articolo 18, di cui non frega nulla a nessuno di coloro che ci stanno ascoltando, però aveva detto delle cose diverse, queste bisogna dire, io lo appoggio in pieno, anzi fa troppo poco perché lo fa solamente per i nuovi assunti, invece bisognerebbe farlo per tutti, secondo me. Ma comunque, prima pensava delle cose diverse. Sentiamo, per esempio, una cosa a caso. 8 marzo di 2012. Io ho detto sull'articolo 18, e glielo ripeto qui, che non ho trovato un solo imprenditore in 3 anni che faccio il sindaco che mi abbia detto: caro Renzi, io non lavoro a Firenze o in Italia, non porto i soldi perché c'è l'articolo 18. Nessuno me l'ha detto. Non c'è un imprenditore che ponga l'articolo 18 come un problema. Perché? Mi dicono, c'è un problema di burocrazia, di tasse, di giustizia, non dell'articolo 18. E non ho mai trovato. Ragazzi, dai, su, ma come si fa? Dai, come si fa? Questo bisogna dirlo. Cioè, lui diceva che... Allora, non lo toccare. Non lo se è così, non bisogna toccarlo. Oppure lì ci ho ripensato, penso che sia un problema, penso che le aziende, per esempio le multinazionali, come dice Squinzi, non investono in Italia per colpa dell'articolo 18. E allora lo dici però esplicitamente, non è che non si sa ancora se verrà modificato o non verrà modificato. Una volta disse pure: non me ne può fregare di meno, senti. Io continuo a pensare che dell'articolo, personalmente, poi sarò sbrigativo, sarò superficiale, a me dell'articolo 18, utilizzando un tecnicismo giuridico, non me ne può fregare di meno, nel senso che mi piacerebbe che il mio partito... Allora non lo toccare, se la pensavi così, non lo toccare, oppure devi dire esplicitamente che hai cambiato idea? Eh beh, no. Oh, questa minoranza del PD mi fa impazzire, è gelosa del rapporto tra Verdini, che oggi peraltro la minoranza è stato del PD, sì. La minoranza, lo sai, ormai a me queste parole mi sono PD. Non riesco più a sopportare queste parole. Minoranza, no? Del PD, la minoranza del PD, sì, lo so, hai ragione, dai, non si può dire, non si può dire a me che sì, comunque no, non si può sono bazzico, sì, in quell'area, come sì, lei sa, la minoranza, sì, lo so, del lo so, PD. Hai ragione, non lei si può... mi fa pure un titolo alle 18:43 sulla minoranza del PD. No, hai ragione, non dovrei dirlo, lo so, però Bersani, lo so, hai ragione, Bersani che dice è geloso del rapporto tra Verdini, che peraltro oggi ha avuto altri guai giudiziari, come sai, Verdini, poveretto, sì, ho Verdini, finanziamento Verdini pubblico eccetera, ma che vuoi fare Verdini, tanto no? Mi stupisce il fatto che lo stesso Verdini ha detto a un certo punto, beh sì, non è per altri reati, è solo finanziamento pubblico dei partiti, sì, no? Certo, la grandissimo, la nuova Verdini, accusa grande, una cosa stupenda, Verdini. Cioè, voi in realtà, se, tra Bersani e Verdini, con chi andresti a cena? Io con Verdini tutta la vita. Cioè, diciamola, no, dillo chiaramente, dillo chiaramente. Io vado a cena tra Bersani io con e Verdini. No, io vado con Bersani, a cena sono con Verdini. Stato anche a cena con Bersani. No, no, ma ma perché? Perché voglio bene a Bersani. Però ti dico, io se devo scegliere, sì, con chi andare a cena tra Bersani e Verdini, vado con Verdini. Dopodiché, sto signore sarà anche il finanziamento poi illecito, eccetera. Però adesso fa anche il costituzionalista, fa diciamo. Ma anche il costituzionalista. Comunque, Bersani dice, da questo punto di vista, un po' questi qua, che ti ripeto, io non sopporto usare questa parola, la minoranza, un po' ci hanno ragione, perché dice: come? Scusa, state cambiando il paese e lo state facendo insieme a uno che c'ha un sacco di guai giudiziari, perché diciamo che Verdini è proprio un dominus, no? Tratta direttamente con gli uomini di Renzi, non ci nascondiamo davanti a questo. Bersani: con la mia storia conservatore no, la vecchia guardia posso accettarlo, per più vecchia guardia di Berlusconi e Verdini chi c'è? Vedo che vengono trattati con buona educazione e con rispetto. Chissà che prima o poi non capiti anche a me. Ma giustamente qualcuno mi dice botte ai falsi invalidi, perché poi diventano invalidi per davvero. Questo effettivamente è vero. In tutta questa Italia che vi abbiamo descritto in apertura di trasmissione qui alla Zanzara, beh, apre una nuova televisione, caro Parenzo. Ah, beh, no, sai, bisogna dire sinceramente, quando apre una nuova TV, ecco, beh, viva la democrazia, no, ma quello viva è il vero pluralismo. Quello è vero, quello è ecco, vero. La banalità tu sai che però televisione apre, però? No. Beh, no, immagino. Ah, Agon Channel, sì, quella no, degli albanesi in Italia. Sì, sì, con sta aprendo Agon Channel. No, no, no, Stefania Nobile TV. Buonasera. Scusami. Buonasera, come stai, buonasera, Stefania? Buonasera, ciao, benissimo. Tu come stai? Senti, ma fra poco, bene, bene, grazie, Stefania. Ma fra poco parte. Che c'è? Parenzo, stai calmo. No, stai calmo. Ti stai già facendo ritardare perché devo partire alle 19. Come? Quindi come alle 19? Noi vogliamo fare un grande lancio, cara Stefania. Io no, lo stiamo ringrazio. Alle 19, collegate. Stiamo tutti facendo ritardare. No, aspetta, stai zitto. Scusa, allora, fino guarda, a ti dico già che non ho nessuna voglia di ascoltare no quello. No, ma infatti sta zitto. No, no, no, no, no, no, questo adesso ecco, sta zitto, sta zitto. Okay. Sta zitto dalle 19 alle 19:15, poi riprendete la Zanzara, ovviamente. Collegatevi assolutamente con il web. Stai zitto, fermo, immobile, non sospirare. Collegatevi non con il web. Non neanche respirare. È adesso, un ordine che do a tutti gli ascoltatori della Zanzara per vedere che cosa succede dentro Stefania Nobile TV. Bravo. Ma ci sarà anche tua madre, Stefania, scusami. No. Stasera no, poi però in altre, certo, altre occasioni sicuramente sì, sì, no? Scusami, no, però stai zitto Parenzo, una curiosità, è dopo il traffico, sì, però è dopo il traffico. Ragazzi, Stefania Nobile, come sapete, figlia di Vanna Marchi, ma ha una sua vita autonoma, con tutti i trascorsi, ha detto io sono colpevole, però adesso non rompete i miei coglioni su quello che ho fatto, eccetera. Inaugura una nuova televisione. Succede anche questo in Italia, caro Parenzo. Succede che apre la televisione di Vanna Marchi e Stefania Nobile. Anzi, si chiama Stefania Nobile TV. Perché non l'avete chiamata col marchio di fabbrica Marchi, Stefania? No, scusami. Perché il canale lo apro io e non c'entra niente Vanna Marchi. Lo so che a voi piace di più per fare polemica Vanna Marchi, però no, il canale, che c'entra? Il canale si chiama Stefania Nobile TV. Il progetto è il mio, il canale è il sì, mio. Sì, ma di che si parla, scusami, in questa televisione? Di che si parlerà? Si parla delle tematiche. Sì. Stasera per esempio l'argomento è la libertà, ma non soltanto la libertà, libertà della privazione della no, mancanza di libertà, ma libertà in tutti i sensi, libertà in mentale. Sensi, cioè, mentale. Io sono contro l'omofobia, contro qualunque cosa che privi un essere umano della propria libertà. Senti, ma è vero che la prima puntata di questa televisione è davanti a San Vittore? No, davanti a San Vittore sono stata fino adesso, sono salita in macchina adesso e sono andata via. Ho fatto che un sensazione hai avuto, ecco, davanti a San Vittore? Beh, tu abiti a Milano, ci sarai passata. Forte, cioè sì, anche però sono stata lì tutto il pomeriggio, è una sensazione, sì, comunque sia, che ti fa pensare, ti fa. Ecco, chi saranno gli ospiti di questa, di questa? O non ci saranno ospiti? Sarete tu e tua madre? Non ho capito. No, mia mamma ci sarà ogni tanto, ma non è necessariamente presente. Ci sarò io, un ragazzo che mi affianca, che si chiama Marco Palata. Ma chi è? Il Conte? Il Conte? Il Conte, bravo. Ma scusa, Conte Palata, come si chiama il Conte di cognome? Salata. Ma perché si dice Conte? Che è Conte sul serio? Ma che Conte? Ma perché non lo so, è il suo soprannome, il Conte. Poi, no, ho capito, ma uno non è che non si è attribuito questo nome in funzione della nobile che sono io. Io l'ho conosciuto che si chiamava già così. Sì, ma ho capito, uno non è che si può autoproclamare Conte, il Conte Salata. Ma lui non è che si è preso un titolo, ha preso un blasone e l'ha messo con le palle in testa. Sì, ecco, ascolta, allora Giuseppe, io ti adoro, ti voglio bene, però ma sta zitto, è stato zitto, è io stato vado zitto a fare il mio canale, punto. Allora lui si proclama libertario, chi verso Parenzo tutti dice Parenzo. Lui chi ecco, che sì, sono stato zitto, però ha ragione, però ha ragione, perché non può fare tutto, non mi deve rompere i coglioni oppure mamma deve mia che ribollo io. Viene in onda davanti a me, parliamo, però davanti, siccome lui è nano, è più zitto, piccolo di me di 25 anni, già che sia però zitto. Scusami, zitto, scusami Stefano, no, hai fatto bene, adesso però esplodo, io dico cioè, io, no, ma stai zitto. Allora lui assolve tutti, va bene chi ruba, va bene chi va in stazione a pisciare, Stefania Nobile no, non va bene. Ma questa ha ragione Stefania, però, Parenzo, su questo ha ragione, però, scusa, ha pagato, ha fatto il carcere, no, hai pagato, non posso più, Conte, in Conte non ne posso più di tutta sta gente. innocente io. Ha fatto tutta la sua pena, l'ha espiata fino in fondo. Ha ragione. Conte Salata, la Nobili che fa la televisione. Allora, ogni tanto ci sarà anche la mamma, io lo come Marco. Fosse Kubrick. Aspetta, Giuseppe, io ti adoro. Aspetta. Ti saluto. No, Stefania, scusa. Vado a fare la mia diretta. Sì, no, sì. No, io dico una cosa. Parenzo, io non capisco. Non capisco, però. Lui è una no, però Stefania, hanno pagato. Però scusa, tu hai sempre detto di essere. Madonna mia. Perché hai detto che sei colpevole quando hai sempre detto di essere innocente? Scusa, questo non l'ho capito. Questo. Tu hai sempre detto io sono innocente. Invece leggo un'intervista sul libro in cui dici sono colpevole. No, tu hai visto un film, Giuseppe. Scusami, ma io ho sempre non è che proclamarsi innocente è sbagliato. Mai detto nella mia vita, mai mi sentirai dire sono innocente. Ma ti hanno chiesto di fare anche le televendite ancora? Hanno chiesto a te e tua madre di tornare a fare le televendite? Io non le farò mai. Quindi quello che mi hanno chiesto o non chiesto non ha importanza. Io non le farò mai. Mai. Non farai mai più le televendite. Assolutamente, no. Anche tua madre non le farà più. Anche tua madre. Assolutamente no. Questa è la buona notizia. Questo lo possiamo proclamare urbi e torbi, che non faremo mai più le televendite. Questo l'ho sempre detto, l'avevo già detto anche in diretta da te. Sì, no, ma intanto perché hai visto, ma nella vita si può cambiare idea, uno può iniziare a fare le televendite. Parenzo, che cosa c'è da dire? Ha pagato, fa una televisione, qual è ma il problema? Ma che televisione? Ma anche perché, scusa, ma di cosa parliamo? Cosa, su YouTube tutti lo possono fare, ma tu basta che non guardi, cioè non è il problema, non ho ma capito. Fai tutte le televisioni che vuoi, ecco, non tu... Il Conte Salata che non è un conte e fai il tuo show davanti. Ma il Conte Salata ma è Marco, dai, è un mio amico, ma, se non ti piace ma non amico, lo guardare. Ma puoi fare la tele, ma non cos'è la televisione della Nobili? La televisione ma è di cosa via tu web. Cosa dici tu via web, via la rete? Ma che roba è la televisione della Nobile? Tu che cos'è dire, la televisione della Nobile? Dovresti soltanto stare zitta e tornare nella spelonca dalla quale sei venuta dopo il male che hai fatto. Ciao Nano, ciao Giuseppe, per cortesia riprendi una parola, se no metto giù, Davide, per la seconda Davide, volta stai, mi costringo Davide, a stai calmo, stai allora, calmo, stai calmo. Io dico che tutti nella propria vita hanno un coglione a fianco, tu hai preso lui, si vede che ti serve. Però Giuseppe. Scusami Stefania, lui dice una cosa. Basta Giuseppe, ma cazzo, ma avete rotto i coglioni, basta! No, però scusami una cosa. Ma cos'è? Ma c'è gente che ci governa tutti i giorni! Che ha delle condanne sulla testa, e allora ve la prendete con l'unica no, persona. No, io non me la prendo, è lui che ha pagato tutte le sue cose. Lui non basta. Se la prende, lui non se la prende. E allora che cazzo no, vuole? Io non mi piace Stefania Nobile, di che cambi canale. Lui dice che una persona che è stata condannata per certe cose non dovrebbe più fare niente. Ma allora dobbiamo sgombrare le strade, perché io di pregiudicati. Parenzo, rispondi a questa cosa che non ha torto. C'è Verdini che sta rifacendo, lei dice c'è Verdini che sta rifacendo. Io dico che persone così più tacciono e tornano a fare lavori, allora, robe normali, tesoro, a servire il caffè, a preparare la minestrina. Io capito? Ti saluto, la minestrina va a fare i tuoi figli. Ti saluto, ciao. Ciao Stefania. Ciao. È uno stato di merda che andrebbe processato. L'Italia è un paese bizzarro, caro Parenzo, popolo della zanzara. Ci sono persino delle persone. Fermati. Che succede? Un minuto di silenzio per la televisione di Vanna Marchi e Stefania Nobile. Ma non si può fare il silenzio, siamo alla radio. Abbiamo una televisione appena fondata! 800.000 euro al giorno vi chiediamo! Per richiedere le trasmissioni, d'accordo? Scusi. Altrimenti macumba per tutto l'anno! Presente Marti! Signora Marti, questo sale che noi vi diamo, vi trasmettiamo ogni giorno, d'accordo? Scusi, signora Marchi, però 800.000 euro al giorno. Soltanto devi dire, soltanto 800.000 euro al giorno! Ma cazzo, Giuseppe, ma cazzo, ma avete rotto i coglioni, basta! Interviene viene anche la signorina buona educazione, cresciuta a Cambridge, Oxford. Dai, smettila. Ma smetti la cosa che hai voluto tenere a battesimo. Televergogna. Televergogna, no, televergogna. Ma non è più vergognoso quel consigliere, quel segretario della Lega Nord di un paese in provincia di Treviso che si chiama Maserada? Aspetta. Perché no? Aspetta, il quale su Facebook, ha scritto: cosa si lancia ad uno zingaro che sta affogando? Madre, la moglie e i figli. Poi si è pentito, ovviamente. Certo. Moglie e figli a rom che affoga. L'immagine è questa: c'è un rom che sta affogando, no? Sta affogando, non so, in un fiume, al mare, eccetera. Invece di lanciargli la scialuppa di salvezza, cioè la ciambella, eccetera, uno dice: cosa gli lanci? La moglie e i figli, così affogano tutti insieme, spariscono tutti insieme, capito? Come si chiama questo signore? Si chiama Andrea Della Puppa. Ma non è un signore qualunque. Beh, che cos'è? È un signore. Solo che fa politica. Sì, fa politica, un esponente della Lega minore di un paese in provincia di Treviso. Che c'entra? C'è qualcuno che se la prende perché la Boschi, durante il weekend, il ministro delle riforme, che pare essere onnipresente in tutte le sagre e feste italiane. Beh, va a ospite alle feste dell'unità. Cosa insomma, pazzesca, che male ovunque c'è. Tutti. No, per carità, non c'è niente di male. Beh, non si riesce a trovare della buona carne di cavallo. Cioè, la sostanza è che mangia carne di cavallo. Anch'io mangio carne di cavallo, ma non mi sembra strano. Ho mangiato pure il cane, per cui figuriamoci se non mangio la carne di cavallo. Carne dolce, buonissima, carne di cavallo, ottima. No, a me non piace. Vabbè, ma ti piace perché? Per il cavallo? Perché si uccidono i cavalli? Sì, un po' mi fa impressione. Ma ti per fa impressione quello, veramente? Sì. Io mangio carne di cavallo, non me ne frega niente che si uccidono, mi perché ci sono tanti cavalli. Perché a me poi i cavalli amo i cavalli, moltissimo. Amo i cavalli, ma mangio la carne di cavallo. Allora, la signora Boschi è stata criticata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, capito? Ente Nazionale Protezione Animali. La signora Rocchi, che è stata anche una deputata o senatrice dei Verdi. Senti quello che dice sulla Boschi, cose, cose pazzesche. In Italia parlano tutti di qualsiasi cosa, meno male, altrimenti saremmo praticamente fuori, non potremmo fare questa trasmissione, saremmo sostanzialmente a casa. Fa il ministro della Repubblica, non è che fa non è che fa un mestiere da ridere, fa il ministro della Repubblica, si è chiesta perché non ci sono più le macellerie qui, oppure si dispiace perché non trova più la carne di cavallo, si mette in cerca e vediamo che trova. Per adesso trova francamente il dissenso forte di tutti gli animalisti, noi siamo veramente sconcertati dalla sua assenza di sensibilità, dice l'Ente Nazionale Protezione Animali, che invece di occuparsi di cose serie si occupa di una frase detta dalla signora Boschi, in cui semplicemente si dice: non si trova più della buona carne di cavallo, cioè mangia la carne di cavallo. In Italia non si può nemmeno dire che uno mangia la carne di cavallo, perché gli animalisti e la protezione degli animali ti assalgono. Ma di che parliamo? Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Rovigo, esplode una cisterna di acido solforico in un'azienda di rifiuti speciali. 4 operai morti, un altro ferito. Il PM, errore umano e poca sicurezza. Napolitano, per il lavoro politiche nuove e coraggiose. Non restare prigionieri di conservatorismi e corporativismi. Inutile sbraitare contro l'Europa. Renzi a San Francisco, all'Italia serve un diverso mercato del lavoro, faremo di tutto per cambiare il paese, il rischio è avere città bellissime ma del passato. Lo scontro sull'articolo 18 continua a dividere il PD, Lotti, chi ha perso non detti la linea, la Camusso pronti ad andare in piazza anche da soli. Allarme di Draghi, la ripresa nella zona euro rallenta, finora riforme strutturali insufficienti, la Merkel gela i francesi, no ad altri fondi per la crescita. Denis Verdini di Forza Italia, giudizio per finanziamento illecito. La vicenda è legata a plusvalenze nell'acquisto di un immobile. Il senatore dice: io estraneo. E in carcere Genia Carogna, leader degli ultranapoletani durante la finale di Coppa Italia a Roma. La madre di Ciro Esposito, ucciso quel giorno, sono indignata per l'arresto. Ragazzi, però io non mi posso tenere queste cose, ce l'ho qui sulla punta della lingua. Avete sentito dai titoli del TG3 di prima, no? La madre di Ciro Esposito, per carità, grande rispetto, per carità, il dolore. Ma scusa, ma perché dovrebbe essere indignata per l'arresto di Genia Carogna? Perché? perché la madre del povero ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma, per carità, siamo tutti vicini, una famiglia che ha perso un figlio, dovrebbe essere indignata perché è stato arrestato Jenny a Carogna? Cioè, non è che è indignato perché hanno arrestato, che ne so, un attivista politico, uno che combatte la dittatura. La madre di Ciro Esposito, cui va il nostro grandissimo rispetto sempre, è indignata. È indignata, sarà indignata anche per tutto quello che è successo al figlio, ma perché hanno arrestato Jenny a Carogna? Non solo è indignata, poi il TG3 non ha detto una cosa, ci sarà sicuramente nel servizio, ha detto che bisognerebbe dargli quasi una medaglia, bisognerebbe riconoscere i meriti di Jenny. Me lo sono appuntato qui. Meriti, eccolo qua, sì. L'ho segnato su un foglio, cosa incredibile, non segno mai nulla. Jenny a Carogna, arrestato. Sì, è chiaro che la madre di Ciro Esposito, dovrebbero dargli un premio, dovrebbero ringraziarlo. Perché dice che ha mantenuto l'ordine pubblico a Roma Jenny a Carogna, che cioè, da un certo punto di vista è anche vero. Però non è che uno lo deve ringraziare per questo, se la deve prendere con quegli stronzi che hanno permesso questa roba qui. Allora, la Boschi era ospite alla festa dell'Unità. Scusami, della Boschi, tu hai mai sentito parlare della contessa Pinina Garavaglia? No, chi è? No, chi, ecco, è? Chi, è? Chi è? Adesso mi sono procurato il numero, adesso la chiamiamo. Tu guarda intanto la contessa Pinina Garavaglia, che io conoscevo dall'epoca di Milano. No, è un personaggio straordinario. Ma chi è? Non adesso la chiamiamo al volo la contessa. Ma che sempre fa parte? Guarda su internet. Fa sempre parte. Pinina Garavaglia. Fa sempre parte del gruppo della Marchi. Caricando da solo, guarda. Fa sempre parte del gruppo della Marchi. No, altra cosa. No. Allora, ospite alla festa dell'Unità di Zagarolo, la ministra delle riforme Marina Boschi ha fatto una scorpacciata di tordomatto, squisito involtino locale a base di carne di cavallo. Finito di leccarsi i baffi, ha sospirato che la carne equina a Roma non si trova facilmente. Ma tu ti rendi conto, gli animalisti contro la Boschi, fa ridere ragazzi, fa ridere. Giovanni da Roma. Vai Giovanni. Ciao Brucia, io voglio dirti una cosa. Tu hai sempre le risposte pronte alle considerazioni stupide. L'altro giorno un senatore ha fatto una considerazione cogliona senza nessun significato. Quale? Che senatore? Aspetta, fammi parlare. Dicendo che vuole mettere in galera quelli che per 3 volte vanno con le prostitute. Allora a questo senatore gli devi rispondere: intanto il sesso è un bisogno fisiologico, come un bisogno fisiologico mangiare e andare a cagare. Quindi, no, ma questo siamo perfettamente d'accordo. Questo è un bisogno fisiologico. Che io metto in galera una persona che c'ha fare. Ma questo lo dica a Parenzo. Dillo a Parenzo, dillo a quelli che hanno presentato. Il buonista moralista che c'hai vicino di Parenzo, che dice: beh, ma se uno vuole scopare, se ne va in Svizzera. Sì, immagina Sicilia. No, io ho detto un'altra cosa, genio. Prende l'aereo per andare in Svizzera. No, ho detto un'altra cosa. No, tu vuoi multare i clienti delle prostitute? Vuoi multarli? Vuoi multarli? Vergogna. Ho detto no, basta, vuoi multarli, è inutile riprendere. Sono a favore delle fino a delle quando case c'è la legge sui bordelli chiuse, sono bisogna multare, poi no, vabbè, sono stra a favore per combattere lo sfruttamento, lo ma dirò ha ragione lui. Giovanni, noia. Cosa volevi dire? Giovanni, dimmi che cosa volevi dire a Parenzo. Come sta una ragazzina di 14 anni, ma che sto sfruttando, a parte quella che la madre c'ha, queste ce l'hanno per conto loro, nessuno gli dice di andarsi a fare le mignotte. Beh, oddio, adesso qualcuno le ha anche raggirate. Questo simpatico sociologo al telefono. No, è vero che ha 14 anni, a 16 anni. Poi raggirare la ragazzina, ma noi donne che hanno 25 anni. Perché lei va anche con le 14enni e 16enni, per caso. Col DMV. Perché lei va pure con le minorenni, Giovanni, lei va con le minorenni? Ma quale minorenni? Io non vado con le... Vabbè, lei andrà a prostitute, no o no? No, non mi capita. Non le capita, va bene. La mia amica, quindi. La tua amica, sì. Amica fissa. Amica fissa. Bravo, bene. I single che hanno di questi problemi, che non sono sposati. Ha ragione. Un attimo solo, fermi tutti. Io mi voglio divertire quando accendo la zanzara. Pensandoci bene, caro Parenzo, l'arresto di Jenny a Carogna è una follia. Io ho detto la madre di Ciro Esposito, ma sì, è una follia, perché se tu dici era meglio lasciarlo fuori perché lo controllavi di no, più. No, ma a parte questo, no, questo no. Non me ne frega niente. Ah, non capisco. Cioè, prima ci tratti, prima ci tratti, prima lo consideri una specie di statista per mettere a posto la situazione, perché di questo si è trattato. Hanno parlato, se c'era qualche cosa che non andava bene, cioè lo arrestavano subito, o almeno i giorni successivi, no? Prima ci hai trattato, e dopodiché 5 mesi dopo lo arresti. Ma non è che lo arresti per cose nuove, lo arresti per le stesse cose che sono state commesse, sì, quella, no, sera. Il problema sono i 5 mesi, lì per lì, no, ma è scusami, chiaro che avevi, scusami, una questione di, no, ordine pubblico. Scusami, eh. Scusami, leggo dai giornali. Sono stati contestati i reati di concorso in resistenza pubblico ufficiale. Sì. Cioè, ma erano lì, però. Erano lì. Quale resistenza? C'era accordo con pubblico ufficiale, non resistenza. Accordo con pubblico ufficiale. Sì, certo. Ma è quello, è per quello che viene arrestato. Poi aspetta. Lancio di materiale pericoloso e invasione di campo. Ma ripeto, è stato chiamato dalle forze dell'ordine. Poi magari si sarà arrampicato da solo, ma insomma l'hanno tenuto lì. Se era un reato, ma questa è una follia italiana. Dai, è chiaro, su. Questo non c'è dubbio. Dopodiché è ovvio che in un contesto come quello lì, quando hai la curva che può esplodere da un momento all'altro, possono fare invasioni di campo, e i poliziotti che erano lì, forse io immagino, leggendo come te le notizie in questi minuti, è ovvio che lì per lì hanno detto: con questo, sì, signor La Carogna non si può arrestare una persona 5 mesi dopo per le stesse, dopodiché, cose che hanno detto. I reati però ci sono, quindi non è che possiamo dimenticarli. Ma dai, su, è stato arrestato. Dai, perché, scusa, cioè, però, scusami, perché bisogna... tutte le battaglie no, però, io non voglio fare la battaglia, battaglie per Jenny garantiste, no, che dobbiamo fare, fare, possiamo, no, fare mettere Jenny La Carogna come simbolo della mala giustizia, questo, no, mi pare fosse un po' troppo, ma è il, capito, simbolo del fatto che i magistrati fanno il cazzo che vogliono. No, dai, è il simbolo di un paese, tu, di merda, tutto appunto, finito, dai, sicuro. Allora, prima Giovanni da Roma voleva finire. Giovanni, dai, forza. Ah, ecco, dimmi. Stavo dicendo semplicemente questo, quindi bastava rispondere a quel senatore che vuole fare la multa e mettere in galera la gente, che ha detto una cazzata. Perché il stress è un fatto, un'esigenza fisica, come mangiare, come tante altre cose. Ma non ci fate nessuno. Ma ha ragione, ma qui ci roba. Sono i neotalebani, Parenzo, Buttiglione, questi altri che hanno presentato, adesso li voglio andare a scovare uno per uno, quelli che hanno presentato questo disegno di legge. Che non fa senso, no, come non lo fa Parenzo, se andassero a far visita da qualche medico. No, guardi, Parenzo lo farà a casa sua, guardi, con la sua, sì, compagna. Infatti, guardi, amichetto mio, lei che ha la sua amichettina fissa con cui fa il prelievo. Fammi parlare. No, no, scusi, caro, lei può fare tutti i prelievi che vuole con la sua amichetta. Perché tu fai l'amore e lui fa il prelievo? No, l'ha detto lui, che c'ha l'amichetta fissa. E ma che c'entra? Ma non ho capito, perché lui fa il prelievo. Stai insultando può questo signore? Quello, ma non lo insulto. Sì, dico, lo stai insultando quello, perché hai detto che il signore fa il prelievo, invece tu fai l'amore. Detto, ma non ho mai detto nulla di questo, non ho parlato di me. Ho detto questo, beh, sì, signore qui, che lui ha detto poco fa che ha l'amichetta, e io sono felice per lui che abbia l'amichetta. Io non ho mai ma non fa il prelievo, lo sta insultando. Farà un prelievo. Giovanni ti ha detto che fa il prelievo. Ma sì, farà un'amichetta fissa, come l'ha definita. Nel linguaggio di parenti, ma che c'entra? L'amichetta potrebbe essere anche una compagna. Ma no, come l'ha detto, sembrava si Giovanni vantasse Parenzo del ha fatto detto che lei fa, no, il prelievo. No, stai zitto un attimo. Giovanni, il prelievo nella terminologia parenziana, il prelievo significa il, no, ma fa, capito? Chi è vuole, chiaro, fa, no, certo, il prelievo. Sì, il prelievo. C'è la signorina che le fa il prelievo, ha capito di cosa? In termini eleganti l'ho detto, no, non eleganti, in termini, sì, volgari. Io ho diverse amiche, grazie, vedi, a Dio. Sono, bravo, per l'uomo, quindi ho diverse ragazze. Quando voglio fare sesso lo faccio tranquillamente. Ma siamo tutti felici per lei e nessuno contesta la sua scelta. Vergognati. Non sto parlando per me, Parenzo, cerca di aprire. Io sono felice per lei, delle sue amichette, di tutto quello che fa. Mi va benissimo. Io ti sto dicendo. Io ho detto che quando c'è lo sfruttamento della. Buonista, buonista. Ma non c'è nessun moralismo, perché sono a favore delle case chiuse, tutt'altro. In Italia che le case chiuse. Le case chiuse a Roma, in Italia, non ci sono. Allora, appunto, appunto. Il single che sta in Sicilia non può andare a scopare in Austria. E quindi deve andare con la ragazzina sfruttata dalla mala. Ma va bene, allora, se questa deve fare, secondo ma se, ecco, allora, questo è il punto, vedi, è semplicemente, allora, questo. Fermi, il state punto. Zitti tutti e due. Sentite cosa succede a Rimini. Quattro insospettabili signore riminesi, sposate con figli, che hanno deciso di arrotondare il bilancio casalingo allestendo una sorta di cooperativa luci rosse, dove in perfetta armonia si dividono le spese dell'alcova e i clienti. Sono cameriere, colf, barista e babysitter. Benissimo. Capito? Ma pulivo case, aspetta, pulivo case per 600 euro al mese. Ora sono ricca e il lavoro mi piace. Mi ero stufata della solita vita. Bene. Guadagnare la miseria di 600 euro al mese pulendo nelle case, che magari arrivavano a 1000 facendo la cameriera nei fine settimana. Lo scorso novembre, insieme a Consuelo, abbiamo messo un annuncio su un altro sito web, su un sito web specializzato, con alcune foto molto esplicite, indicando anche le rispettive specialità. Oh. Ma che gli vuoi dire? dire a queste qua? Cioè, viva la libertà! Viva la libertà di prostituirsi e di vendere il proprio corpo! Sintomo dell'esistenza di una civiltà occidentale! Dell'esistenza della libertà, di una società libera dove ognuno fa il cazzo che vuole! Secondo certe regole, ovviamente, dove ognuno può vendere anche il proprio corpo per guadagnare! Per passare da 600 a 10.000 euro al mese, è legittimo! Io non lo farei, ovviamente! Ci sono persone che lo vogliono fare, perché deve essere impedito a queste persone di farlo con regole, punizioni? Sostanziale su. Tra questa storia e altre. Fammi sentire Lorenzo da Venezia, dai, Lorenzo da Venezia. Vuol dire proprio non capire. Lorenzo, scusa. Sì, buonasera. Dimmi, dimmi. Pronto? Ah, sì, mi sentite? Parli però, parli. Però, calmo. Allora, ma sta cosa qua cazzo, della liberalizzazione... Cazzo, oh! Dai, tranquillo, ragazzi. Vai, vai, tranquillo, vai. Mi vuoi fare calare l'adrenalina? Mi vuoi fare calare l'adrenalina? E allora vai, su. Fammi finire. Ma non hai manco iniziato, su. Sono passati 40 secondi. Fammi iniziare, creatura. Allora. No, creatura lo dice a tua sorella, amico mio. Ma cagare. Allora. Creatura lo dice a tua sorella. Poi proseguiamo, dai. La smetti? No, la smetti tu. Allora, calmiamoci un attimo, allora, calmi. Finire. No, ma tu non hai nemmeno iniziato, è passato 30 secondi. Sì, creatura, non me lo dici. Dopodiché andiamo avanti, dai. Stai tranquillo, vai avanti, forza. Cruciani, ascolta, circa la liberalizzazione della prostituzione, ma secondo voi una prostituta dovrebbe aprire partita IVA? Certo. Pagare. Prego? Certo. Ah, certo. Sì. Ma secondo voi, lo faranno loro? La ma non lo so. L'obiettivo questo? È quello. Poi esisterà sempre il nero come in tutte le cose, no? Bravo. Allora, io sono d'accordo sul fatto che sia liberalizzato. Tutto. E allora? Però io, mettendomi nei panni di una prostituta, devo aprire partita IVA, devo pagare le tasse in Italia. Perché se io faccio la prostituta in Austria e in altri paesi, evidentemente il livello impositivo non è come da noi. Poi mettici. C'ho un appartamento, benissimo, allora questo appartamento deve essere approvato dalla ASL perché c'è gente nuda che gira col pippi di fuori e per cui deve esserci delle condizioni igieniche e allora pali, paletti, lacini, lacciuoli. Ragazzi, non esiste in Italia liberalizzare la prostituzione, ma non per un discorso moralistico, è proprio un discorso di praticità e di intelligenza. E allora? Nessuno mai lo farà mai. Ma nessuno lo farà mai, sono anche d'accordo con te che nessuno lo farà mai, purtroppo l'Italia è il paese che conosciamo, il paese dei falsi invalidi, dei politici che dicono una cosa e ne fanno un'altra, di Renzi che diceva che l'articolo 18 non l'avrebbe toccato e invece adesso lo vuole toccare, eccetera. Si cambia idea ogni 30 secondi, va bene, senza un programma, senza una prospettiva, questo lo sappiamo. Figuriamoci se fanno una legge per rimettere le case chiuse per legalizzare la prostituzione, ma nemmeno i miei nipoti, se mai li avrò, vedranno una cosa di questo, nemmeno i miei nipoti, glielo posso assicurare, nemmeno i miei nipoti. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, Adesso voglio trovare qualcuno che contesta l'arresto di Jenny Agarogna, Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make. Vediamo se becco qualcuno che dice che l'arresto di Jenny Agarogna è sbagliato, Paolo? Eccomi. Paolo Liguori? Sono io. Qui la Zanzara, buonasera. Come stai? Buonasera Zanzara, come stai te? Togli l'auricolare, Paolino. No, non ce l'ho l'auricolare. Ma perché? Mi hai scritto una cosa su Jenny Agarogna che è stato arrestato per antipatia, secondo te? No, dico, sentivo che commentavate la cosa che è incredibile, che è indignata la madre. Beh, quello sposa. Effettivamente indignarsi allora, per l'arresto no, di Jenny Agarogna. Allora, ascolta, io non sono indignato, ma sono sconcertato. Perché devi arrestare oggi Jenny Agarogna? Perché stamattina non me lo sapevo spiegare. Perché l'hai arrestato oggi? Perché cosa? Gli dai un DASPO, lo metti fuori dalle stadi, ma perché lo devi arrestare? Quello già ce l'aveva il DASPO. Pura vendetta sociale, cioè, siccome lo Stato era debole e non è stato capace di salvare il figlio della questo signora oppure di fare cos'altro, deve dimostrare di essere forte con Gianni La Carogna. È lo Stato Carogna questo. No, d'accordo, però la signora ha ragione Liguori, prima lo Stato lo usa nella trattativa per le anime della curva. E poi ti dico un'altra cosa, che questo è vero. Cioè, perché lo Stato lo deve usare così? In maniera assurda, perché Jenny La Carogna alla fine l'hanno incriminato per la maglietta speciale Libero. Lui è stupido, non solo padrone, per quello, non padrone solo per quello. Di, ma sì, ma quello ha dato fastidio. Resistenza tratta... pubblico ufficiale, ma secondo me non c'è resistenza, c'è accordo con pubblico ufficiale. Si trattava con Gianni Lagarogna, col capitano del Napoli, cioè di che cosa stiamo parlando? La mamma è indignata, te lo dico perché. Perché? Se adesso l'ha ammazzato mio figlio e qualche amico suo, pur sbagliando, si fosse mobilitato sì. per lui, io una volta che non posso più salvare mio figlio, però in ogni caso difenderò questo amico suo per tutta la vita, perché alla fine la mamma è mamma e Gianni Lagarogna si muoveva comunque per suo figlio. Scusa, tu devi pensare pure che la gente non è fatta solo di ragionamenti. Vero? È fatta anche ho capito, di... però addirittura dire che ha salvato la situazione, che bisogna dargli una medaglia. In quel momento ha salvato la situazione perché c'era perfino il signor Renzi in tribuna e non sapevano cosa fare, avevano paura. Talmente avevano paura. Sì, però ragazzi, qui si rischia di far diventare un personaggio che è quello ma che ma non è, si rischia, lo fa diventare lo stesso Stato che è stato in belle allora, lo fa diventare ora un personaggio, come tutte le vittime per esagerazione, per eccesso. Gianni Lagarogna stasera c'è stato un eccesso di giustizialismo nei suoi confronti. Sì, ma quando Gianni... una signora, che per carità rispettiamo, dice sono indignata per il suo arresto. La signora la rispettiamo per davvero, perché non era lì, non ha fatto nulla. Certo che la rispettiamo, non è che lo possiamo dire tanto per dire no, sì, noi la rispettiamo, però ha torto. La signora non ha torto. Sono indignata per il suo arresto, dovrebbero fermare quelli che hanno ucciso mio figlio. Jenny l'hanno certo già fermati, Jenny ha evitato altri incidenti allo stadio, avrebbero dovuto avere un premio. Ma certo che è indignata, io non userei l'aggettivo indignato, perché è tanta roba, però non sono la mamma di Ciro. Io uso l'aggettivo sconcertato, demoralizzato, mi fa impressione, mi fa tutto quello che vuoi. Ora, negativo, ho preso questa notizia con molto senso negativo. La mamma di Ciro è indignata, sì. La capisco anche. Capisco, lei capisce se vuole quello che dico io capisco quello che lei dice. Gennaro è stato allo stadio, è stato interpellato dalla società, ha fatto solo da intermediario con tutti i tifosi presenti all'Olimpico per calmare verità. Gli animi. Subito, ma infatti in questo caso dice la verità. La mamma di Ciro dice la verità, e quando dice che è indignata dice pure la verità, perché secondo me lei stasera c'è rimasta male, perché l'amico del figlio l'amico del figlio che quella sera, l'amico morale del figlio, quello sì. che rappresentava la metafora della difesa signora del Leardi quella sera lì, è stato trattato come un criminale. Un attimo, signora Leardi, buonasera. Sì? La disturbo, sono Cruciani da Radio 24, salve. Mi scusi se la disturbo. Senta, parlavamo qui alla Zanzara delle frasi che lei ha detto oggi su Jenny Lagarogna. Volevo fare altre due domande su Gennaro, adesso non so bene, non mi ricordo il cognome. Perché lei si è indignata per questo arresto? Ce lo può spiegare, scusi? No, perché cioè, in effetti io l'ho vista una manovra quella che hanno fatto. Cioè, Jenny è stato chiamato, non ha fatto l'invasione di campo. Io adesso guardavo il telegiornale. Sì. Sì. Perché qualcuno mi aveva detto che era andata così la cosa. Sì, sì, no, ma... Adesso guardavo il telegiornale e loro l'hanno chiamato e lui è sceso in campo. Sì. Questa cosa qua me l'avevano già detto delle persone, anche perché io poi a Gennaro personalmente non lo conosco, l'ho visto una sola volta a Piazza Pia degli eventi che stavano facendo un murale e si mi abbracciò. Sì. Non è che io faccia parte per Gennaro. Cioè lei dice... indignata sì. per una cosa che alla fine... Cioè, non la vedo una cosa così criminosa. Andare a dire che il ragazzo non è morto, fate la partita, poi dopo lui so che anche partita è andata all'ospedale, io non c'ero ancora perché sono arrivata la mattina all'ospedale. Quindi mi sono sentita indignata, perché non la vedo una cosa così criminosa. Cioè non vede criminoso quello che ha fatto Jenny là allo stadio? Gennaro De Tommaso. Allora, una persona che non è che ha fatto l'invasione, ma è stata chiamata. Allora, a me me l'hanno detto in più di una persona. Quindi, ora guardando bene il telegiornale, ho visto che l'hanno chiamato e lui è sceso. No, ma su questo lei ha ragione a dire che prima lo Stato ci tratta e dopo lo arresta, certo. 5 mesi dopo lo arresta per le stesse cose. Su questo lei ha perfettamente ragione. Allora, io questo semplicemente dicevo. E poi, della maglietta, non tolgo meglio, non sono affari miei, perché... Torno a ripetere, lo disse allora e lo dico ancora adesso, non so neanche chi è questo speciale, chi è... Però la maglietta è sbagliata, signora. La maglietta è brutta, È brutta la maglietta. Io questo voglio dire, proprio in questo io non entro in merito perché non so neanche di cosa si tratta. Io non parlavo della maglietta, ma parlavo appunto del gesto che lui ha fatto. sì. In effetti io non l'ho visto un gesto criminoso. Dire sì, non ti preoccupare, vai, la ragazza è ancora viva. Cioè quello, poi... quello di salire sopra, sopra la transenna, lei dice comandare la ma situazione. Ma se l'hanno chiamato, ma non l'hanno comandato, lui non ha comandato niente. Io ho visto che gli altri lo chiamavano, ci stava il presidente, ci stava Amnesty, che l'hanno detto, hanno, si sono avvicinati per dire... Ma lei, lei dice che è stata questo arresto è una vendetta? Ma io non, no, non credo che sia una vendetta, però secondo me non la vedo neanche una cosa, cioè, no, io non la vedo una cosa giusta, perché un ragazzo alla fine non ha, non ha fatto nessun atto criminoso. Ma avrebbe non dovuto avere un premio, ha detto lei, addirittura un premio. Un premio perché secondo me far fare quella partita è stata una cosa importante. No, d'accordo, adesso, signora. Adesso, ritornando indietro, sapete, ma quelle migliaia di persone che uscivano da, quella, da quello stadio, sì, cosa succedeva in quella certo tesi? Questa ha ragione. Questa sì, d'accordo, perché lo Stato era incapace, però, signora, di controllare. Signora, deve riconoscere che lo Stato che si mette a trattare con un signore che non è una, cioè non è che il signor Jenny a Carogna. Però posso dire una cosa, cioè, in quel momento c'era Jenny, no? Sì. Se ci stava un'altra persona che si chiamava Antonio, che si trovava lì, perché come voi sapete ogni gruppo ha una persona che fa le coreografie, io ne ho avuto modo di conoscerle adesso. Vabbè, il signore aveva anche dei precedenti. Vabbè, questo non lo so, non so. Lei lo definisce un bravo ragazzo, questo signore, Jenny Agaroni. Allora, io a Gennaro personalmente, se è bravo, se è un delinquente, non lo conosco e non posso giudicare. Ho detto io l'atto. Sì. Quello dell'invasione di campo non ho visto un atto criminoso perché non è per me, per quello che ho visto io non è stata un'invasione di perché campo. Perché l'hanno chiamato. E lui ha detto andate avanti, la partita si può procedere perché il ragazzo è vivo, gliel'hanno chiesto perché l'hanno chiamato loro, non è che Gennaro comandava lo stadio, uno stadio con migliaia di... Cioè dovrebbero ringraziarlo, dice lei, dovrebbero ringraziarlo. Ma sinceramente, per quello che ha fatto, se è stato veramente a far andare avanti la partita, secondo me non ha fatto nulla di grave, secondo il mio parere. Va bene. Secondo lo Stato, secondo quello che è giuridico, come ben sappiamo... Però signora, non è un bravo ragazzo, si può dire che non è un bravo ragazzo questo signore che ha anche diversi precedenti? Mi sta facendo una domanda che non posso rispondere. Vabbè. Perché io conosco mio figlio Ciro era un bravo per ragazzo. Per carità, qui non discuto. Lo posso ribadire, certo. Mi posso incatenare, le posso fare la pedina penale, lo so perché mio figlio... Certo, certo. Ma io a lui non lo conosco. Grazie signora, grazie. Ciao, mi fate ridere, siete troppo simpatici. Ai microfoni della Zanzara, la signora Esposito, che poi si chiama in un altro modo, conferma, secondo lei, l'arresto di Jenny Agaroni, protagonista quella sera di maggio durante la finale di Coppa Italia, quell'uomo abbarbicato con la maglietta speciale libero contro la polizia, protagonista perché ha trattato direttamente con lo Stato per tenere la situazione sotto controllo, l'arresto oggi di questo signore la fa indignare. Anzi, dovrebbero premiarlo, dargli una medaglia. Hai sentito la voce, Paolo, della signora? È convincente, secondo te? No, io la penso al 100% come lei, su tutti gli argomenti, perfino sulle piccole osservazioni che gli avete fatto. L'arresto è tardivo, oggi è sbagliato, ha un sapore di vendetta, avrebbero dovuto arrestarlo allora, non trattarci allora. Ma tutte le cose... sì, perché non c'è una cosa all'epoca nuova. Liguori ha ragione nel merito. Tutte le cose sono senza senso. Ma all'epoca non l'hanno fatto per ragioni di ordine pubblico, Paolo. Ma 5 mesi dopo, dai, su. Perfino l'osservazione sulla maglietta, voi sapete che io sono invece un grande sostenitore di Raciti e delle sue ragioni, che è il poliziotto morto a Catania. Certo. Ma la maglietta Gennaro la indossava per motivi di opinione, la sua opinione è diversa dalla nostra. Ma no, ma cioè, tu non è che puoi essere condannato per opinione, certo. Lui, esatto. No, ma questo è vero. La indossava quella sera davanti a chi trattava con lui. Allora, o uno dice, allora... Io non parlo con uno che porta una maglietta così. Se ci parli va bene anche la maglietta. Se ci parli la maglietta dopo, non mi puoi dire, sì però guardate che maglietta che portava, che delinquente che è. Perché non ti piace la faccia di Gennaro? Ma voi come ciclette date gli ACDC adesso come mi piace nella trasmissione e che sono meglio di... Ma Paolo, ma lì c'è tutto il cinismo giusto dello Stato, perché lo Stato è cinico, lo Stato... Lavoro, che... non fa, ormai sono stanco di parlare di cose in cui lo Stato commette errori e per coprire i propri errori tardivamente interviene ex post. Sono decine i casi in cui lo Stato si comporta male. Ma lì c'è un problema di ordine pubblico, però, Paolo, lo sai. Ma cinque mesi dopo, per le stesse cose. Questo è vero, questo avete ragione. Se lui andava arrestato due ore dopo, dopo la partita, andava arrestato subito. Non solo la morte di Ciro Esposito è ingiusta perché non è stato fatto nulla prima, ma vi rovescio la situazione completamente. Perfino oggi sapete bene che su come è stato trovato De Santis si è fatto silenzio e si è mentito per mesi. No, no, è lo stesso discorso. Vabbè, però andiamo dall'altra parte. Colpevole, non racconti la verità. No, no, ma quello d'accordo. Sinceramente, infatti, sinceramente la medaglia, come dice la signora, la medaglia, un riconoscimento. Brava però, Sì, la signora è forte, sì, è brava. È molto attenta, è molto circostanziata, non ha detto una parola di troppo. È stata brava. La medaglia, quale Senti, medaglia? Ma chi è che voleva, scusa Paolo, dato che ci sei, ti abbiamo pizzicato oggi. Chi è che voleva Floris a Mediaset? Non lo so, chi voleva, forse Floris. No, Floris che faceva scrivere i giornali, come si capisce, noi avevamo un buco sulla trasmissione di Floris, lì sono pieni e lui è andato a guadagnare poco dal punto di vista degli ascolti, l'hai visto, no? No, però ma c'era qualcuno molto in alto che voleva Floris a Mediaset. Ti voglio dire ancora una cosa sullo stadio, però. Che vuoi se dire? A noi non ci piace Jenny La Carogna e non ci piace nemmeno a David, penso. No, assolutamente. Voi dovete dirlo che solo la nonna Aurora caccia i Jenny dallo stadio. C'è la nonna di Florenzi. Nonna di Florenzi. Sì, è vero. Noi riempiamo lo stadio di nonne Flore, di nonne Flore, questo è vero. È vero, ciao Paolo, Aurora. Ciao Paolo, ciao. Ti saluto, arrivederci. Ciao caro. Senti come Salvini esprime la sua opposizione alle adozioni gay. Senti, questo è stupendo, no? Anzi, no, sul matrimonio gay, sui figli, eccetera. Col Bayonne, mettendo in mezzo il Bayonne. Ti giuro, il Bayonne, non ci crederai, ma se ci pensi bene. Il buon Dio e la natura hanno deciso che se non si incontrano almeno per un quarto d'ora un uomo e una donna, difficilmente succede qualcosa. E la natura è meglio non disturbarla, perché la tragedia del Vaillant non è lontana da qua. E quindi quando l'uomo violenta la natura, giustamente la natura si incazza e si ribella. Quindi la Lega, movimento normale per persone normali. Cioè, questo è stupendo. Lega Io movimento ho i brividi di chi normale parla di cose normali. Per persone normali. Perché? No, fammela dire tu. Aspetta. Perché è normale quello di Radio Padania? Cioè, la normalità è il Varin? E quella roba lì è la normalità? Quelli sono normali? No, quelli dai, sono stai subnormali. Stai definendo Varine subnormale. Pellegrino è subnormale. Dai, l'amico Pellegrino. Ma sto definendo, lo sto fotografando. Cioè, se per i padani è normale Varin, questo è il tema, perché quella roba, se per loro è normale quella roba là, beh, amico mio, hashtag tutto strafinito. Poi ce n'è un'altra, no adozioni gay, senti. Noi abbiamo detto di no alle adozioni gay, perché l'indipendenza ha bisogno di una società, e una società ha delle regole ben precise. Il matrimonio ha bisogno di un uomo e una donna, e i bambini vengono adottati laddove ci sono un uomo e una donna. Cioè, l'accostamento tra l'indipendenza e uomo-donna e il matrimonio solo tra uomo e donna è eccezionale. Andiamo a Lecce, Marco. Salve, dottor Cruciani. Vedo che probabilmente con le proteste di questi giorni ha cominciato a mettere un po' di sale in zucca. Ha fatto delle osservazioni giuste riguardo a Jenny, nonostante la sua fitina penale non del tutto candida. Vedo che si è in qualche modo, scusa per il cerone, No, ma guardi che io non è che voglio tutte le persone in galera comunque, eh. Se penso che una cosa sia una follia la dico, a prescindere dal fatto che Jenny Agarogna sia napoletano, leccese, no, romano, milanese, a me che cosa me ne frega secondo lei? Lei pensa che io ho un pregiudizio nei confronti di Jenny Agarogna? Oh, certamente ha dei precedenti, cioè per me manco dovrebbe stare allo stadio. Non doveva esserci neanche quel giorno. Punto e basta. Vabbè, Alessandro dalla provincia di Lucca. No, però dai, non possiamo far passare il messaggio che uno, perché io la penso diversamente, eh. Uno non è che può girare liberamente con la maglietta speciale libero e pensare che ciò non costituisca problema, perché sennò Alessandro siamo dalla provincia di Lucca, speciale libero è una libertà di opinione. No, è un incitamento alla no, col cavolo. Io sono a favore sempre della polizia. Se ma uno gira, allora lo prendevi e lo arrestavi in quel momento. Certo, se ma ti ho detto reato, che in quel momento, se portare quella maglietta era un reato. Ti ho detto che in quel momento lo sai lo anche tu e te l'ha ricordato Liguori, in quel momento c'era un problema di ordine pubblico per cui lo Stato non era in grado di garantire un bel tubo come spesso accade, e questo è un tema. Con quante persone c'erano allo stadio quel giorno? 35.000, 40.000 come allora? Allora gestire 40.000 persone, no, quello lo sappiamo che era difficile, e questo allora è il contesto. Sto dicendo, allora, folle che l'abbiano arrestato 5 mesi dopo, folle. Il giorno, 2 ore dopo dovevano arrestarlo, 3 ore dopo, perché uno col profilo come quello del signor Carogna ci hanno trattato e adesso dicono che c'è stata resistenza pubblica ufficiale per ragioni di Stato. Ci hanno trattato e hanno fatto bene a trattarci, Alessandro, perché non erano in grado abbiamo di fare capito, altro. Abbiamo capito, Alessandro provincia di Lucca. Io non è che gira con la maglietta speciale libero, stiamo scherzando. Ma quello è buon gusto, tu non ci giri. Ma incitamento alla violenza. Non è nessuna incitazione alla violenza, no. Alessandro dalla provincia di Lucca. No, uno gira con la maglietta. Io non sto dicendo che è bello girare, sto dicendo che non è un reato, è diverso. Come si sente Alessandro provincia di Lucca? La famiglia di Raciti come si sente? Ma va benissimo, lo arrestassero allora se è un reato. Alessandro provincia di Lucca. Si può? Sì. Buonasera, buonasera. A proposito di reati, io faccio parte di quella schiera di imbecilli che ritengono, pur essendo un libertario assoluto, quindi favorevole alla liberazione della droga, liberalizzazione delle adozioni gay, tutto, va bene tutto, gioco d'azzardo, gestione dello Stato, cioè, per me la prostituzione è un reato. In che senso? È un reato, è un reato, è un reato per chi la dà, è un reato per chi la dà. Lei va oltre la legge, siccome non è la prostituzione, no, non è un reato, lei va oltre la legge. Per lei però non lo è. Per lei, vabbè, casa sua lo è. La proposta di quel senatore, la proposta del senatore è assolutamente per me condivisibile. E vabbè, a lei piace perché così, a lei piace mettere in galera i clienti. Dopodiché è un percorso di recupero. Perché per ma me recupero di che? Ma lei è mai andata a puttane? Assolutamente no. Male, malissimo, male. Malissimo, male, provi. Provi. No, attenzione, guardi, Cruciani, mi consenta. Non sono mai andato, non sono un adone, quindi sono di quelli che il pane se lo deve guadagnare in quel senso lì, per cui non è che sono uno che le donne gli cadono i piedi, però ritengo che la prostituzione non sia come andare a comprare un bicchiere d'acqua. Vabbè, ma da qui al reato ce ne passa, io ho detto che è come prendere un caffè, un reato, e sono convinto che è come è acquistare un caffè. Alle persone, è un oltraggio alla dignità umana, un oltraggio alla dignità umana, adesso un ma ragazzi, come ma no? Il mondo è cambiato, non è guardi, più guardi, così, no, ci sono casalinghe che per passare da 600 euro a 10.000 euro, ma non gliene frega niente della questione morale. Vanno a si prostituiscono per passare da 600 euro a 10.000. Ma rubare, perché impedirglielo? Perché impedirglielo? Ma è un reato. Ma come è un reato, lo dice, a parte non è un reato. Non è un reato. Una cosa schifosa. Lo sfruttamento della prostituzione è un reato. Io è su quello che mi batto. Ma questo lo sappiamo. Nella tua banalità, la tua banalità già. Ma non è una banalità, perché ma anch'io lo sfruttamento sono contro. Anch'io no, sono contro. No, no, adesso non puoi dire come che no? Sei contro. Lo sfruttamento, certo. No, amico mio, non puoi venire a fare il giochetto delle due carte, carta vince, carta perde, carta vince, carta ma perde. Sei impazzito? Sei mica Vanna Marchi, Ma sei pazzo. Carta vince, carta perde. Io no, sono contro lo sfruttamento, ma sei non pazzo. È vero, è tutt'altro. Come tutt'altro? Con quello scusa che hai sostenuto in tutte queste settimane. Certo, sono contro lo sfruttamento. Quei quattro scusa maniaci che telefonano, quei quattro guarda, maniaci che telefonano. Andiamo alla pubblicità, dopo te lo spiego bene. Carta vince, carta perde, carta vince, carta perde. No, no, carta vince, asso, qui c'è l'asso, pubblicità, qui c'è l'asso, donna asso, torniamo donna asso, attimo, carta vince, no, carta perde, carta vince, carta perde. Con me non, questi giochetti non funzionano. Amico mio, lì te lo dico da amico, gatta cicova lì. Oh, eravamo con Alessandro, provincia di Lucca. Sì, allora? Sì. Concludiamo, dai. E concludiamo, sì, volevo dirle quindi che non è come comprare un tozzo di pane, non è assolutamente assimilabile a come fumare una sigaretta o come altri vizi, si tratta di un reato perché è una cosa che offende la persona. Ma smettila Alessandro, smettila, basta con sta roba, dai. Lei potrà obiettare che anche se porta una ragazza a cena una sera, ma i paesi normali hanno i bordelli enormi e fanno i soldi, le faccio un regalo, fanno i soldi con i bordelli enormi, non è la stessa cosa. Ma guardi, nel mondo c'è tanta aberrazione, ma quale aberrazione? Noi dobbiamo adeguarci a questa aberrazione. Ma quando mai, dai, su. Ciao Alessandro. Ma ne fa una questione moralistica. Che queste sono povere donne che magari fanno questo perché devono mangiare. Benissimo, no, allora guardi, per strada. Ci sono tanti ma non è una questione morale. Euro e me ne vado. Tu stai zitto che va a punire i clienti, stai zitto. No, io ho detto un'altra cosa, Antonio, che se vai a prostitute devi essere consapevole che molto probabilmente stai aiutando la criminalità, quindi non è vero. Ma non è vero. È evidente, no. Quindi non puoi dopo fare il giochetto e dire no, però lo sfruttamento tu sei d'accordo con la punizione dei clienti con le multe. Hai detto che devono arrivare a casa davanti alla moglie. Quello l'ha detto apposta come iperbole. Adesso ti sistemo io. Antonio dalla provincia di Como, fammi sentire. Devi multare i clienti perché molto bravo. Sì, vai, ecco, perché bravo lo sfruttamento della prostituzione. Saluto anche l'emerito coglione che c'ha di fianco. Mi saluti a casa la famiglia, tutto bene? Non si preoccupi, lasci stare la famiglia. Bravo. Siamo io e lei. Siccome lei ha iniziato a insultarmi, mi saluti tutti a casa. Mi saluti a casa la famiglia. Mi saluti a casa tutti. No, lei non si preoccupi. Sta bene lei, salute, sì. Bravo, lei in salute, sì. Lei è in salute, vero? Lei è in salute? Cucciari, tenga le mani sul volante. Fallo parlare. Basta essere vero che dici sempre le solite. Tenga stronzate. Le mani sul volante. Guarda dove cammina Cruciani. Guidi bene. Non fai più cazzo nella vita. Si distrae. Vabbè, Antonio, che dicevi dei puttanoni? Non ho capito. Vuole andare con un bel bagascione. Si può fare una bottiglia di vino, gli dà 300 euro. Ma che cazzo me ne frega se questa qua poi gli dà 100 euro a chi magari lo chiama per proteggerla se arriva il deficiente? Se in Italia non ci sono leggi che tutelano queste qua, io non mi devo privare, cosa che a me non succede. Io non voglio andare con un bel puttanone, ben libero di andare, lo ammiro, cazzo. Se è libero, che non ha famiglia o che cosa, fa benissimo, alla grande. Saluti al re della valle dei coglioni tutta la vita. Parenzo, scusi un attimo professore, lei ha detto prima una cosa interessante. Scusi, no, per interloquire un istante professore, mi scusi perché c'è un passaggio professore. Professore cresciuto a Cambridge, scusi un istante solo, No, ma mi faccia capire il modo di ragionare, solo per capire il modo di ragionare, okay. Poi ognuno torna sulle proprie posizioni. Tenga sempre le mani sul volante, però, amico mio. Ciò sempre, bravo. Ciò detto, amico, ascoltami. Quando arriverai a portare un mezzo che porto io, ma guarda, stai. Come sei messo? Ascoltami. Non sai neanche cambiare la gomma di una macchina. No, ma non c'ha la patente, non ha ancora la patente. Come questo stiamo al mondo. Allora ascoltami, mentre parli però tieni le mani sul volante e prova a connettere anche le sinapsi. Ascoltami un attimo professore, solo un secondo. Tu hai prima professore. Col tuo linguaggio aulico. Ascoltami un attimo, che c'hai soltanto la toppa della testa. Ascoltami amico mio un attimo. Non lo capisco io, Antonio, lascia capire, se no. Che stavi dicendo? Ti curavano la gente, no? La sera che chiamavano non sceglievo alzare. Ma non sono coglioni, questi sono dei deficienti perché... No, ma tu hai detto un'altra cosa, ascoltami solo un attimo. Ma sono i coglioni che si fa in chiappetechi, chi dà 100 euro e fammi dire... Stai tranquillo, Antonio, stai tranquillo. Antonio mio, mi ascolti un attimo. Antonio, mi ascolti un secondo o no? Ma i coglioni e la gente con le telefoni, falsi moderati. Ma mi ascolti, Antonio, o no, che ti voglio chiedere una cosa? Mi ascolti o no? Sereno, cazzo. Allora, fai così con me, ascoltami, guarda. Antonio, guarda, un secondo solo. Guarda, fai così con me e poi parliamo. Dai, frenare, vai ancora. Un bel respiro. Cazzo, allora, prima idea. Chi è che ti arrabbi con quello? C'è una che ti arrabbi così? Sto ascoltando te, col telefono in mano. Io sono qua. Ma tirala sotto, ma che ti frega Antonio? Tirala sotto. Antonio dagli Coniglio. Tirala sotto, che ti frega tu col camioncione. Dai, ma sì, suonagli. Ma sì, a 120 all'ora, ma chi se ne frega? Bravissimo. Un ricchione, fosse questo sicuramente, perché ma, ne ma certo arrivando certo ma via parolacce i viaggi no. Suona suona ancora dai dai suona ancora su con l'arroganza suona mamma mia Antonio ascoltami Sant'Antonio sì ascoltami Antonio cioè mio mi ascolti mi ascolti 30 secondi prima del signor Bagascione scusami professore 30 secondi mi puoi ascoltare 30 secondi o no? Poi? 30 sì. Adesso allora, se n'è andata quella Antonio? Con la 500 dai quella con la 500 ce l'ho fatta da parte con, gli certo con l'arroganza gli hai suonato via via via che passo io no, sono io Antonio non ho suonato ho fare un attimo si è spostata ascolta Antonio allora tu hai detto prima cosa non fa la scimmia ascoltami hai detto prima una cosa interessante hai detto che me ne frega me io tanto la pago poi se questa è sfruttata gli do il 100 questo qui dal questa chiaro. Qui dal 100 euro questo hai detto prima, hai detto è... questo Antonio mio hai detto detto okay, questo, okay, ma ok, ma un corno! Somaro d'un somaro! Non un corno! Somaro d'un somaro! Marco da Livorno! Buonasera, l'arresto di Gianni La Carogna. Sì, dimmi. Per me l'arresto è sbagliato solo per un motivo, perché doveva essere abbattuto quando era là sul casino. Cioè lì sopra la staccionata, lì sopra abbattuto. La vetrata, così, buff, abbattuto. Deve essere abbattuto, come gli animali. Premesso che io sono un ex giocatore di rugby e chissà come mai la squadra di rugby Italia è seguita nonostante che perde molto. Evidentemente questo. Vabbè, ma adesso chi se ne frega del rugby, stiamo parlando di altre cose. Marco, lei dice, tu dici, altro che arresto 5 mesi dopo di Gianni Acaragna. Ma il DASPO, ma cos'è il DASPO? Il DASPO è una schifezza. No, ma certa gente deve essere presa, tirata giù dalla cosa. Signore e signore, non ti puoi mettere la sua. Purtroppo è stato chiamato. Rompergli tutti gli ossicini. Sì, ma purtroppo è stato chiamato, questo è il problema. È stato chiamato dalle forze. No, sul cancello non è stato chiamato. Sì, è stato anche chiamato. Comunque, vabbè, è uguale, dai, è stato chiamato. Ci hanno trattato, eccetera. Ci hanno trattato tranquillamente. C'erano 40.000 persone da tutelare dentro quello stadio. Ma dai, ma non c'entra nulla, dai, su. Ma non c'entra niente. A voi Soloni questo, a questo qui che parla da Livorno. Va bene, Antonio da Crotone, fammi sentire Antonio. Gli vuole sparare, vai, Antonio. Siamo alla follia. Oh. Dimmi Antonio. Giungla. Allora, partendo dal fatto che Cruciani spara sempre un sacco di minchiate, no? Sì. Perché specialmente su Napoli e sul Sud spari un sacco di cazzate, quindi sei un cazzaro. Però hai ragione sul fatto che la mamma di Esposito non deve indignarsi, perché cazzo ti indigni se hanno arrestato un tizio che ha fatto quel che ha fatto, comunque non è una cosa legale. Ma sbagli nel dire che la magistratura fa sempre quel cazzo che vuole, e come Liguori sbagli a dire che dovevano arrestarlo allora. Allora scusami, che cazzo arrestavano allora se l'avessero arrestato? Aspetta un attimo, qui stasera è un casino. Pronto? Pronto? Chi risponde? Vittorio? Antonio, prosegui, dai. Eccolo. Antonio, dimmi. Ecco, stavo dicendo, che cazzo restavano allora se succedeva un casino? Se lui non, e poi era lo Stato che è andato a mediare con lui. Se lo Stato media vuol dire che comunque ha bisogno di un favore, ma non è che se è vero che vuol dire che media, quindi è nel giusto e quindi poi non bisogna allettarlo perché lo Stato si ha usato lui. Ha mediato per tenere bene le armi. No, guarda, la cosa incredibile in questo caso è che si è passati dalla trattativa con Gianni Acaragna all'arresto per resistenza pubblico ufficiale. Dopo cioè, prima la trattativa col pubblico ufficiale, poi ma, la... ma questo è un altro discorso. Dai, su, è una vergogna, dai. Ma che la trattativa è stata fatta per calmare le acque, se vuol dire, se tu sei un criminale. Ma sempre trattativa c'è stata, sempre trattativa è. Non ho capito che cazzo vuol dire. Se uno ha la coltello dalla parte del manico, che fa? Sì. Vittorio? Eccolo. Dove sei? Sono in autostrada verso Bologna. Che vai a fare a Bologna? Vado a preparare una mostra nello stesso luogo dove fu fatta la ragazza dell'orecchino di perla. Senti una cosa, Vittorio, ma che ti sei messo a fare con la Boschi? Gli hai fatto una poesia, gli hai dedicato una poesia a Beatrice di Dante? Io? Sì. No, credo che sì. Io ho una rubrica sul giornale di più. Consiste nello scrivere una lettera alla persona a cui mi chiede il giornale di scrivere. Quindi ne ho fatta una anche ai figli, dicendo che la mia eredità sarà immateriale, legata a una fondazione di opere d'arte. Beh, c'hanno un sacco di soldi, gli lasci però con le opere d'arte, altro che, no, immateriale. Ecco, però che rimanga però una fondazione. E George Clooney, per dire che sono d'accordo col sindaco che li ha isolato e protetto dai passanti lo spazio a Sera della Villa, e la Boschi per dirle che più che interessanti sono le sue forme che le sue riforme. Devo scrivere delle cose, ho detto le riforme non... Ma che c'entra la Beatrice di Dante, scusa? No, io l'ho fatto la battuta, non è l'elemento interessante, questo sarà un... Ma ti piace la Boschi o no a te? Beh, è abbastanza carina, sì, è una bella ragazza. Cioè, ci passeresti una serata? Beh, anche un 3 o 4, insomma. Anche una nottata, insomma, anche una nottata, diciamo la verità. Vabbè. Come dire, anche come, diciamo... Obolo alla patria. Beh, obolo alla patria adesso, dai, obolo lo Stato e quindi... L'altro giorno ho letto una cosa che Moana Pozzi sostiene che tu l'hai sempre corteggiata, ma lei non te l'ha mai data, signora Moana Pozzi. Questa là? La Pozzi, poveraccia, è morta, Moana Pozzi, nel ventennale. Moana Pozzi, no, non l'ho corteggiata propriamente, ma la conoscevo. Senti, ma io non ho capito una cosa, l'arresto di Jenny Acarogna non è una follia, secondo te? Ma Jenny Acarogna forse è quello che... portava la maglietta negli stadi, quello? Sì, esatto, sì, speciale, sì, libero. Cinque mesi dopo. Era una figura un po' inquietante. Sì, ecco, ma cinque mesi dopo. Dovevano arrestarlo subito, infatti. Vedi, non si capisce la razza dell'arresto tardivo. È un arresto, come dire, con una con ritardo, come una scopata con ritardo. Insomma, è una specie di... non si capisce quale... determinazione, ma il magistrato cosa ha scritto? No, scrive che è resistenza pubblico ufficiale. Fatto allora? Le stesse cose, cioè, non è che ci sono fatti nuovi, non è che ha fatto una rapina, non è che ha commesso un reato successivamente, ma no. Ma le tante cose che non ha fatto Berlusconi è impedire lo strapotere dei magistrati con la custodia cautelare che sia oltre una settimana, cioè metti uno dentro una settimana se hai paura che scappi, dopodiché puoi condannarlo con un processo, è una cosa incivile assolutamente, che persino il mio odiato Galan, dimenticato in carcere, sì. Io lo odio. Perché non lo vai a trovare? Perché non lo vai a trovare? Perché no? Mi fa orrore, ma mi è pure antipatico. Quindi. Vabbè, ho capito, ma sta in carcere. Sono intimamente felice che sia in galera. No, ma mi pare però sbagliato. Ma ho capito, di felice che sta in galera, quello pare che stia male. Vabbè, guarirà. Ma dai, felice che sia in galera, Vittorio. No, dai. Io sto dicendo di però, non ritengo che sia giusto. Vabbè, ho capito. Sei felice perché te. È una domanda, ha fatto parte di un governo che poteva fare la riforma su questa materia, non l'hanno fatta. Aspetto che avessero anche Berlusconi, potevano fare la riforma, la storia cautelare non può durare più di una settimana, punto. Non che si alza il magistrato e ti arresta uno e lo tiene in galera. Ma hai visto Verdini che adesso... anche lui. No, Verdini adesso è sotto indagine un'altra volta, è successo un casino. Cioè, da costituzionalista, cioè Renzi tratta Bersani, ha detto, insomma, non ci può trattare... Verdini, cioè, esatto, ha ragione Bersani? Ha ragione Bersani, addirittura. No, dire, Berlusconi ha fatto solo scelte di gente impresentabile o ignorante e incapace. Per un verso o per l'altro finiranno tutti nel nulla, occorre soltanto aspettare, per cui come Galan... Cioè Verdini cos'è che non va bene secondo te? Tu che lo conosci, che l'hai frequentato per un po', o no? Ma è un pirata, è una cosa, è un personaggio... Quando tu pensi che sono stati capaci di dare posti di governo a gente che ha dato soldi... Cioè, ci sono alcuni personaggi per non fare nessun nome. No, facciamoli. Come si chiamava quello lì? Il nostro amico. Chi? Quello del MIR. No, Samorì non ha avuto nessun posto di governo, però. Che c'è? Ha avuto due sottosegretari, uno dei quali è il marito della figlia. Ah, sì, quello. Come gli arriva questa intuizione di scegliere uno di Samorì per fare cosa da parte? Cioè lui dice basta che dai soldi ti poteva dare questa è la politica che hanno fatto questi cioè, Berlini è uno che rappresenta il punto più basso, più immondo della politica, cioè fatta soltanto per i propri interessi personali, una cosa schifosa insomma, per e perché Renzi ci va così d'accordo? Ma perché probabilmente non ho idea, perché quell'altro non so bene, a Renzi non mi pare uno che va molto per il difficile. Va bene, è sicuramente brava, ha della creatività, l'ha dimostrato soprattutto nel passato di essere una brava attrice, eccetera. Ma sentite quello che dice, regista un po' meno, quello che dice Sabina Guzzanti su Il patto del Nazareno. Cioè, perché Parenzo adesso va bene tutto, no? Va bene tutto, però qui Beh, intanto deve promuovere il film. No, vabbè, sì, d'accordo. Tutto certo. È consentito. No, certo, è vero, sì, deve promuovere il film, però lei parla però anche prima seriamente. Prima che tu dica questo, mi viene in mente subito una cosa. Hai sentito cosa ha detto Napolitano? Cosa ha detto Napolitano? Ci vuole coraggio contro la disoccupazione. Sì, ah, beh, una cosa. Ci vuole il coraggio? Sì, bisogna superare i conservatorismi, ha detto. Dunque, è stato allora, interpretato. O Napolitano, no, esatto, però perché deve dire mezze? O dice avanti tutta, noi ci facciamo sono a favore di Renzi, oppure sì, secondo me se la deve giocare, non è che può fare sì, i TikTok e sibillini. Ma poi perché bisogna parlare sempre di tutto? Perché il Presidente della Repubblica no, deve parlare sempre di tutto? No, però a me piace questo lato del Presidente della Repubblica che non è soltanto capito, lì ma chi se ne frega di quello che dice Napolitano sulla disoccupazione? Non ce ne frega una mazza. Beh, lui essendo il capo dello Stato ma ha vissuto di politica per una vita, non deve parlare lui di disoccupazione. Scusa, Vittorio, aiutami tu. Beh, vabbè, dai, Napolitano è costretto dalle beh adesso tu di... non puoi fare no. Come ambasciatore della cosa non puoi no, manco no non è per quello sto dicendo che non può non rispondere alla incapacità di Renzi perché Renzi è un fallimento dietro l'altro e quindi l'altro ho capito Vittorio di... però perché il Presidente della Repubblica parla di disoccupazione in maniera così banale se... o, oppure come no, dice Parenzo peggio per dare dei messaggi parla in modo banale sto dicendoti perché non può tacere sull'evidente fallimento del governo che doveva risolvere il problema, se l'avesse risolto avrebbe taciuto. Siccome in realtà Renzi è come Mourinho, che quando l'Inter perde è costretto a inventarsi qualcosa per far cambiare il discorso, allora tira fuori l'articolo 18. L'articolo 18 è una delle tante stronzate che dovrebbe spiegare a Napolitano a Renzi che non risolvono nessun problema, bisogna calare le tasse. L'unico modo per calare. Per... Allora voglio dire, questo quell'altro è chiaro. Per compensare come faceva con Berlusconi a un vuoto del potere esecutivo. Cioè, però senti la Guzzanti su questo, il patto del Nazareno sì. È un compimento di che cosa? Guarda, senti che puttanata, senti. Ho visto che Renzi rifà il patto con l'uomo che è alla base di ogni male, cosa succederà secondo lei? È il compimento di della... questo disegno iniziato 20 anni fa, cioè un disegno che prevede lo smantellamento di ogni idea di democrazia, del fatto che possa esistere un'opposizione, del fatto che ci possa essere l'uguaglianza, il Senato che viene abolito in questo modo che guarda caso era pure il modo che suggeriva Gelli nel suo famoso piano di rinascita. Là. Non mi dire che sei d'accordo con la Guzzanti, Vittorio. Mi piace la Guzzanti per una cosa, perché ha fatto incazzare uno molto peggio di lei, che è Caselli. È riuscita a attribuire a Caselli la responsabilità di Mori. Caselli era di tutti gli stati, perché si è visto chiamato a rispondere di non avere trovato nel covo di quello che dovevano sequestrare, che evidentemente non è una cosa che è stata fatta da Ross e da Mori apposta, perché tu catturi di Ina, poi come se gli fai un favore, se gli fai un favore non lo catturi. Vabbè, ma non si può dire che il patto del Nazareno è il compimento di non so quale progetto ventennale, è semplicemente... No, ma il patto del Nazareno è una forma di furbizia assoluta di Renzi, che ha fatto andare al Nazareno uno che ha sempre ricevuto a casa sua i suoi amici e i suoi nemici, quindi ha fatto il gioco del campo, io ho il campo e il campo mio viene in ginocchio l'avversario e mi è utile perché mi porta i suoi voti, un'operazione immagine formidabile, tant'è vero che gli elettori di Berlusconi possono votare Renzi come se non fosse un antagonista. Assolutamente, è un'operazione sottilissima. Chi c'è? Paolo da Udine, chi è? Paolo. Sì, buonasera. Vai, dimmi. Senti Cruciani, sono 20 minuti al telefono che sto aspettando di intervenire. Succede. No, ma la cosa è peggiore, che devo ascoltare Sgarbi, ma perché vabbè, ho capito, ma se vuoi ascoltare Sgarbi sarà molto meglio. Perché cazzo lasciate, io ho aspettato 20 minuti, perché cazzo inviti Sgarbi? Ma cosa vuoi? Ma sono affari miei! Ascolta una cosa. Perché non vai a cagare? No, vai a cagare tu, perché tu sei stato condannato. Sei stato condannato per assenteismo e telefoni solo per uno. Ma e tu lo fai parlare, Cruciani? Questo qua non lo devi far parlare, capito? Una zucca vuota. Sì. Ma non ho capito, Paolo. Ma cosa vuoi questo qua? Dai bronzi di Riace in testa, tu. Con mille persone che stavano a me, se parlavo Sgarbi, uno che studia qualcosa. 30 anni in aspettativa. E c'è gente disoccupata e tu che parli di disoccupazione. Tu devi andare. Un attimo, Vittorio, che cosa rimproveri? Sgarbi Paolo, non ho capito. Cosa rimprovero? Cioè questo ti parla di disoccupazione di lavoro e questo è stato condannato per assenteismo. È uno che è stato 30 anni in aspettativa. Vabbè, e io mi devo rompere i coglioni con uno che non sa fare un cazzo e non fa un cazzo e guadagna tutti i soldi. Fare... Ma dai, basta! Ignorante sarai tu, un caprone sarai tu, hai capito? No! Stai zitto Paolo. Ma guarda che gentaglia, Paolo, stai zitto. È stupido. Ah, roba da fare. Perché fate parlare questi cretini? Lo so, sì, è vero. Che dobbiamo fare? Con queste teste di cazzo. Questo è il risultato di questa incultura. Io sono stato in aspettativa, senza segni, come qualunque laureato e poi insegnante. Sì, e pensi di essere stato condannato ingiustamente. Vabbè, questo l'abbiamo detto mille volte. Cosa vuol dire 30 anni da quando stai dicendo questo? Condannato poi dai magistrati ignoranti di una nazione piena di magistrati che condannano per fare gli spiritosi senza aver preso una lira. Cosa sta parlando questo idiota? Ma non avete trovato questo imbecille? E che ne so, è uno che interviene, da Udine. Vabbè, Vittorio, ciao, dai, a presto. T'abbraccio, ciao, ciao. Michele da Roma, Michele. Buonasera, salve. Dimmi. Ciao, sono Michele. Senti, io ti volevo fare una domanda, perché sono due settimane che ti sto ascoltando, però non riesco a capire una cosa. Tu praticamente hai detto che se uno ha amici camorristi è camorrista pure lui, giusto? No, non ho mai detto una cosa del genere, mai. A me non mi sembra di... Non posso mai averlo detto. Vabbè, se... comunque tu senti la trasmissione di due presenti fa... Vabbè, allora che cosa vuoi dire con questo, Michele? Quindi tu però, da quel che ho capito in questi anni che ti ascolto, e sono felice di ascoltarti, sì. Sei molto amico di Dell'Utri, giusto? Io non sono amico di Dell'Utri, no, sono... Sono diventato compagno mio, amico mio, non l'ho detto. Conoscente di Dell'Utri, non me ne vergogno assolutamente. Questo. E allora qual è il problema? Perché è stato condannato in via definitiva. No, per un altro motivo. Mafioso, chiami tua sorella. Madonna mia. Io non ce l'ho mia sorella, mi è morta. Non dire stupidaggini, Michele, non fare. Comunque continuiamo, veramente hai detto bene. Senti, io ti dico una cosa, tu un mese prima che Dell'Utri andava in latitanza già sapevi che lui faceva latitanza, l'hai detto a Radio 24. No, io non sapevo, perché se l'avessi saputo no. L'avrei detto, guarda, se l'avessi saputo infatti, l'avrei detto. No, Giovanotto, tu l'hai detto per Radio 24. No, ho detto, fossi lui me ne andrei, scapperei, no, organizzerei una bella fuga. No, Giovanotto, tu l'hai... Vabbè, ma che vuoi dire con questo? Che mi dovrebbero arrestare perché sapevo che scappava? No, assolutamente, tu fai il tuo lavoro come si deve, è pure Parenzo. Assolutamente, però senti, ma non sei un po' ipocrita? Ma su che cosa sarei ipocrita? Ma su un po' come stai trattando la mia città di Napoli. Ancora con sto Napoli, ancora? Sì, assolutamente. Ma guarda, Crucià, io tanti anni fa ho sentito una volta, una sera, stavo venendo un attimo. Pronto? Eccoci qua, della Puppa? Chi parla? Sono Cruciani, ciao. Che hai combinato? Tanto te l'aspettavi che ti chiamavamo, sì, dai della Puppa. Te l'aspettavi, dai. Scusa, ma io devo mettere giù, non è che cosa devo fare? Perché alza le mani, arrenditi, perché sei circondato. Perché che metti giù? Hai detto che ti sei pentito di quello che hai scritto, o no? Certo, ma io non ho scritto. Come no? Hai postato una roba, qualcosa, chi l'ha fatta quella immagine di quella papera con la sigaretta, cosa si lancia ad uno zingaro che sta affogando la moglie e i figli? Io sono che girano, ce ne sono un milione al giorno che arrivano quelle cavolate là. E com'è finito sul tuo Facebook, scusa? Ma non so neanche da quando c'è, chissà da quando le ho là, buttate là. Sì, però l'hai postato. Sì. Sì. Scusa, capisco che è stato un momento di leggerezza, una stupidaggine che non era stato quello che era la mia intenzione. Ma ti ha chiamato Salvini altro, incazzato per improverarti qualcuno della Lega o no? Senti, è inutile che non è... il caso che ne parliamo adesso così. Ma perché non è il caso? È di cattivo gusto. Perché diciamo non è il caso? Perché non è il caso? Uno ti fa delle cose, se è un esponente politico, ne risponde, parla con le persone, non è che si deve. No, ma infatti, guarda, io politicamente ho le dimissioni, ovviamente, ci mancherebbe altro. Dalle dimissioni da cosa, scusa? Da segretario della sezione della Lega, ci mancherebbe altro. Cioè, non farai più politica? No. Sicuramente non faccio più segretario, poi quello che dovrà fare la Lega. Sì, ma io dico, come, ma davvero tu pensi che i rom vanno puniti in questo modo? Ma ti pare? Non lo so, ma se uno dice affogano, allora mandiamo pure la padre, che la moglie e i figli, uno la pensa. Chi è? Allora, ma perché la Dandola mi chiama, questa procia maledetta? Dimmi. senti, siamo ma sei in radio adesso? E sì, dove, sono, certo, dove siamo? Sull'auto. Ecco, grazie. No, allora, no, perché sarebbe stato bello sapere, insomma. No, comunque, guardate, niente, io ho fatto i miei comunicati. No, ma quello lo sai, i comunicati. Ti mando un altro, guarda, io sono all'altro. No, però, della Puppa, dimmi, mi sono... Dimmi, ho fatto una cazzata, dimmi, ho fatto una cazzata. Chiedo scusa. Sì, dai, sempre te la fai. No, te lo faccio io, ho fatto una cazzata, chiedo scusa, mi dimetto da segretario locale. Segretario locale, chiedo scusa a tutta la comunità Rom. Questo certo. Ma sì, certo, ma anche gli immigrati, ma tu, ma sai che... Vabbè, ma pare che tu due giorni fa, scusa... Guarda, mi fa schifo giustificare... Cosa? Dicendoti delle cose adesso che non ti dirò. Perché? Perché? No, perché no, sono cose che si fanno di cuore e non si dicono, e non ci se ne vanta. Tipo? Okay? Io, per le cose che hai fatto per gli immigrati. Per gli immigrati. Le faccio di continuo, le faccio, ma non mi interessa, capito? Ma è vero che tu avevi citato l'ex ministro Chieng e la sua esorcia. No, è quello che mi dispiace. Dicono, io ho citato, non ho citato niente. C'è la foto di Hitler con un lanciafiamme. È vero o no? Sì, sì. Le avete viste l'immagine? È una cavolo di immagine così. Ho sbagliato, che è stato leggero, perché non pensavo, non c'era neanche che il peso, la vedevo una cavolata così assurda per essere preso davvero. Ho sbagliato nella mia posizione. Chiedo scusa alla comunità Rom. Vabbè, adesso dobbiamo chiudere. Guarda, domani magari ci sentiamo, Domani ci sentiamo. Tanto noi siamo cattivi, però tu puoi resistere, puoi battagliare con noi, no? Come? Noi siamo abbastanza cattivi, ma tu puoi battagliare con noi, tu puoi... Ma io non voglio battagliare, io non voglio buttare in pagliacciata, io ho una vita. Non è che pagliacciata, qui stiamo parlando di cose serie, dai, ti abbraccio, dai, ciao, ti abbraccio no, però ti saluto, ciao. Avete finito. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma basta, Giuseppe, ma cazzo, ma avete rotto i coglioni, basta! Radio 24. La passione si sente.